La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino da Milano vi saluta in diretta dagli studi della radio. Grazie di essere in ascolto in diretta o di farlo poi in podcast. La versione di Oscar, 16:30 primi 49 secondi. Vi dico due cose come sempre in apertura. La prima è l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E la seconda, appena intervenire, 800240024, opinioni 349-238-6666. Vi dirò che la trasmissione di oggi non nasce da una vostra segnalazione, ma da una mia preoccupazione molto forte. Cioè, nasce da una cosa ascoltata in televisione che riguarda noi tutti, certo come consumatori di sostanze alimentari, ma soprattutto quelli che hanno bambini piccoli, cioè genitori. Io, caso vuole che ne ho due piccolissimi, e sentito ciò che vi proponiamo adesso all'inizio della trasmissione mi sono molto preoccupato, per così dire. Quindi è una trasmissione sulla qualità del cibo, in particolare parleremo della quantità di zucchero che c'è nei cibi, nei succhi di frutta, nelle merendine e così via. Perché? Perché io ho ascoltato un brano di trasmissione, la trasmissione è Mi manda Rai 3, quindi una trasmissione del servizio pubblico, a condurre il bravissimo Salvo Sottile, e nell'ambito di un servizio appunto su ciò che mangiamo e i rischi enormi dei cibi industriali che mangiamo, che assumiamo e facciamo assumere soprattutto ai nostri bambini, che hanno dosi massicce e incredibili di zucchero rispetto ai 4 grammi, 5 grammi che sono il circolo sanguigno di ognuno di noi nell'arco della giornata, cioè istante per istante, e noi ne assumiamo invece decine e decine di grammi, cioè multipli di zucchero, dei diversi tipi di zucchero, perché c'era anche la spiegazione ovviamente di quali diversi tipi di zuccheri hanno effetto diverso sull'insulina. Mi sono allarmato tantissimo. A parlare insieme a Sottile, che era il conduttore di questa ottima trasmissione, che io non critico, però ve lo propongo perché poi capirete, sentiti i due interventi, li abbiamo riassunti estremamente, ve li facciamo ascoltare, a parlare insieme a Sottile e a illustrare scientificamente ciò che si desumeva dai servizi, la dottoressa Deborah Rasio, oncologa, ricercatrice nutrizionista presso la Sapienza, l'Università di Roma. Ecco, abbiamo condensato gli interventi a commento degli attentati alla nostra salute che derivano dai cibi industriali in due brevi spezzoni. Cominciamo con il primo. Allora, abbiamo detto che noi di zucchero non abbiamo bisogno, quindi anzi viviamo molto meglio senza, però ci sono degli zuccheri che sono più pericolosi di altri. Il più pericoloso, abbiamo detto, è il fruttosio. Il fruttosio ha questo meccanismo per cui quando entra in circolo, se noi beviamo un succo di frutta, entra tutto nel fegato, mentre il glucosio è utilizzato da tutte le cellule del corpo, il fruttosio è metabolizzato soltanto dal fegato e non ha un meccanismo per difendersi. Quindi quando entra nella cellula, la cellula è sovraccaricata di carburante ed è come se andasse in tilt, quindi si crea uno stress ossidativo, l'infiammazione. Questa è la ragione per cui moltissimi nostri bambini, quindi parliamo di bambini, hanno sindrome metabolica, hanno un fegato grasso. Non lo dobbiamo sottovalutare, perché è una condizione che può evolvere in cirrosi, addirittura necessitare di trapianto. Questo succede negli Stati Uniti, ma noi stiamo cominciando a imitare, ahimè, sempre di più questo stile di vita assurdo in cui mangiamo cibi che sono creati a tavolino dall'industria. Ecco, io arrivato a questo primo passaggio, in cui si arriva appunto alla cirrosi e al trapianto di fegato per i bambini a cui diamo da mangiare senza rendercene conto cose preparate a tavolino dall'industria, parole testuali, io ho fatto un primo zompo, per così dire. La cosa poi mi ha preoccupato ulteriormente quando più avanti, qualche minuto dopo, ho sentito questo. È sempre la dottoressa Deborah Rasio che parla. Tra l'altro dicevamo con Deborah Rasio che lo zucchero è innacquato anche negli alimenti per bambini, no? Lo mettono dappertutto perché serve a dare gusto e sapore a qualcosa che non ha più sapore perché è stato già precotto biscotto lavorato, magari il risultato della combinazione di polveri diverse, quindi sono prodotti che non avrebbero sapore a meno che noi non andiamo ad aggiungere sale, zucchero, grassi. E guardate che questi alimenti vengono messi insieme in modo tale da stimolare delle aree del cervello che sono le stesse che vengono attivate da droghe, quali per esempio la marijuana, la cocaina, che creano dipendenza. Allora non ci dobbiamo stupire che poi i nostri bambini non si sanno fermare di fronte a queste merendine, sono studiate per creare dipendenza, perché la combinazione di zucchero, grassi e sale fa questo. E allora questo meccanismo che ha spiegato è stupendo, si chiama glicazione delle proteine, vuol dire che noi disattiviamo i nostri enzimi, le nostre proteine, nulla funziona più al meglio quando 50 grammi di zucchero, cioè 10 volte quello che un adulto ha in ogni momento, vengono introdotti nel nostro corpo. Tra l'altro dovremmo avere una grafica in cui è contenuto lo zucchero negli alimenti per bambini. Leggo dei dati: 11 grammi nell'omogenizzato alla pera, 6,3 nel biscotto granulato, 18 grammi addirittura nel biscotto, 9,2 grammi di zucchero nei cereali e nel cacao solubile. Tutti alimenti per bambini. Allora, io qui sono semicollassato, perché il mio figlio, quello più grande, sì, effettivamente gli piace il succo di frutta, glielo do, non chissà quanto, ma glielo do, capita due volte al giorno, ha mangiato omogenizzato, adesso non le mangia più, ovviamente, è svezzato e mangia di tutto, merendine no, però può capitare, caramente. Allora, mi sono detto, qui c'è una oncologa. La trasmissione era senza, ovviamente, e questo secondo me è un po' difetto, se posso permettermi di dirlo, gli amici mi mandano a Rai 3, la trasmissione del 20 settembre era senza contraddittorio, però è ovvio che io sento un oncologo, una ricercatrice, un nutrizionista della Sapienza, e dico a mia moglie: ma non è che noi siamo gli assassini, qui lei sostiene che gli alimenti industriali per bambini sono fatti apposta perché rilascino, interagiscano con la parte del cervello che è quella che crea sindrome della dipendenza, e dice come la marijuana, come la cocaina. Possibile mai che le autorità in tutto il mondo, ma anche in Italia, siano mute e zitta di fronte a questa cosa che a me sembra incredibile? Ecco, questo è l'argomento di oggi, perché mi sono detto: primo, chiamiamo le aziende e diciamoglielo in faccia, siete degli assassini. Secondo, vediamo chi nel movimento dei consumatori, di fronte a rilievi di questo tipo, come la pensa. Quindi gli ospiti nostri, due di oggi, su cui commentare esattamente queste cose, ve le ho fatte sentire apposta, io non ho niente da aggiungere perché non sono uno scienziato, sono un padre preoccupato oltre che un giornalista. E allora abbiamo chiamato il direttore di comunicazione di Centromarca, cioè l'associazione italiana dell'industria di marca, Ivo Ferrario. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. E Ovidio Marzaioli, che è il vice segretario del Movimento Consumatori. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio. Allora, Ferrario, qui le accuse sono durissime, gravissime. Beh, il quadro è abbastanza a noi chiaro come mondo delle imprese. La sensazione che noi abbiamo tratto, ma questo che lei segnala è un episodio, noi siamo impegnati quotidianamente da tempo su tanti fronti del mondo editoriale, proprio perché questo atteggiamento di anti-industrialità è abbastanza diffuso nel mondo dell'informazione. Parto da un concetto importante. Qui si parla di, in questa trasmissione, ma anche in altri articoli, spesso il discrimine non è sull'ingrediente, ma è su cosa è industriale e cosa non lo è. Sì. E anche in questo caso si è calcato, secondo noi, un po' la mano su questo tema dell'industrialità negativa. Ma se guardiamo gli ingredienti dei dolci, storicamente la mia mamma ha sempre usato burro, zucchero, sale e marmellata, ma non è stata sotto processo mai in trasmissioni televisive. Si parla di cibi preparati a tavolino come se ci fosse una spectre che progetta chissà quali diavolerie, ma no, in realtà... ma se capisco bene, io ho ascoltato testualmente, l'ho riproposto, probabilmente nel caso di sua madre l'argomento della dottoressa è: io vi dico che non dovete eccedere, decidete voi, ma vi dico che non dovete eccedere, mentre invece nella preparazione industriale degli alimenti, in particolare per bambini, perché è stato ripetuto più volte, ci sono additivi per la dipendenza, come le droghe, ha detto. Questa cosa che stimolino quelle materie prime, questi centri nervosi, e si è assimilato in una trasmissione una merendina per bambini a delle droghe, mi sembra si commenti da sé, non abbia bisogno di commenti. Noi parliamo di aziende che entrano ogni giorno nella vita di milioni di famiglie, che sono sottoposte a controlli di ministeri, di autorità locali, che rispettano leggi, regolamenti, norme sanitarie incredibili. I prodotti alimentari dell'industria sono prodotti elaborati con equipe di nutrizionisti, di medici, di esperti di materie prime. Si cercano sempre le migliori materie prime, si fanno controlli sulla qualità che non esistono nei mondi artigianali o negli altri mondi che spesso sono, come dire, dati come mondi perfetti, no? Tutto quello che arriva dalla campagna è una cosa che funziona sempre, è perfetta, non ha nessun tipo di problema. Ora, è chiaro che c'è un'innovazione, ma io faccio un esempio molto, molto banale. Quando si fa innovazione, se io entro in un negozio di tanti supermercati di biologico oggi, trovo dei prodotti che sono lavorati in modo tale da sembrare apparentemente carne o salumi o formaggi, ma in realtà sono specialità vegetali, per esempio, che sono state trattate e non si presentano così in natura, però hanno subito una elaborazione a tavolino, senza dubbio, però questi prodotti sono sempre perfetti, leciti e non esiste nulla, ma giustamente è così, cioè noi crediamo che sui mercati ci sia posto per tutti, cioè che ci sia posto per il coltivatore, che ci sia posto per il gruppo di acquisto solidale, per le grandi industrie ovviamente di marca che poi costituiscono la pancia del consumatore e dei consumi oggi. Quello che non capiamo è questo atteggiamento, ribadisco, questo che lei ha citato è un caso, ma che è ricorrente sui media, di tipo proprio ideologicamente quasi anti-industriale. Ecco, questo è un tema su cui noi stiamo maturando riflessioni importanti, perché con tutte le attività che vengono messe in piedi, le faccio solo un esempio, tutti si sono occupati di cibo nel periodo di Expo, noi ce ne occupiamo tutti i giorni, cioè la nostra competenza, le nostre attenzioni, tutte le analisi che vengono fatte sono quotidiane e spesso eccedono, vanno oltre le norme di legge, proprio perché le industrie, soprattutto l'industria di marca, su questi temi non può permettersi di fallire o di vedere rovinata la sua reputazione che si costruisce in decenni. Allora, aspetti, quindi queste accuse sono cose che vanno veramente contro. La interrompo perché naturalmente c'ho la rivolta, l'ascoltatore dice: hai chiamato uno di parte? No, io ho chiamato la parte che lì mancava, perché sai, se sono i produttori di sostanze stupefacenti voglio capire loro come la pensano, ma non ho chiamato solo loro. Infatti immediatamente giro la palla a Ovidio Marzaioli, ma dal punto di vista della garanzia dei controlli, ripeto, parlava un oncologa, ricercatrice, nutrizionista, quindi non è che parlasse l'espressione di un partito politico, per così dire, anticrescita. Io sono tenuto a pesare come l'opinione di una ricercatrice, quindi a pesare e a dargli quindi credibilità. Beh, voi che pensate al movimento consumatori, delle cose dette in questo modo e soprattutto dei controlli? Sono sufficienti secondo lei, Marzaioli? Allora, i controlli sono sicuramente sufficienti, visto proprio anche il livello di controllo che in Italia abbiamo sia sul cibo, principalmente su quello industriale, ma la cosa che mi ha fatto davvero impressione è stato questo tentativo quasi di un rientro al luddismo agricolo, cioè andiamo, distruggiamo ciò che è industriale e riportiamoci all'agricoltura. Tutto quello che veniva ai tempi antichi dato al bambino ha portato altrettante cose difficili da superare, se non attraverso i controlli e tutto quello che noi abbiamo fatto nel tempo sui prodotti industriali. Ma la cosa che a me ha fatto paura è proprio l'idea di abbinare allo zucchero un sistema quasi di dopaggio del bambino. Questo è davvero preoccupante, perché porta una superficialità di giudizio che poi diventa opinione comune ed è molto difficile da rimediare o da sradicare. Cioè, l'obesità di un bambino è un problema, ma altrettanto grave è inserire dentro questi discorsi un qualche, tra virgolette, terrorismo di un determinato alimento. Cioè, io quando sento una televisione come la RAI, che è una televisione di Stato, che deve fare servizio pubblico, anelerei come minimo a che due parti si contrappongano, perché altrimenti l'informazione è un'informazione di parte, anche se nella migliore delle ipotesi di buona fede, ottima, precisa, che ci dà informazioni, ma sono informazioni comunque da una sola parte, visto lo schierarsi così forte su una ipotesi di addirittura di fegato grasso, di malattie, cirrosi, addirittura che c'è bisogno nel giro di poco tempo di un trapianto. Francamente lo trovo imbarazzante che venga detto in un posto dove si dovrebbe dare informazione, comunque informazione corretta. Allora, cioè, io ripeto, c'ho moltissimi che dicono, no, siete di... carissimi ascoltatori, io non metto in dubbio quello che... ve lo faccio sentire apposta, come se fosse qui la dottoressa Deborah Rasio. E non stiamo parlando che, ovviamente, se uno mangia quantità di zucchero, come dire, una cosa in eccesso, ovviamente questo crea problemi. Noi stiamo parlando di una cosa che, se avete colto, è quella dei rischi altissimi nei cibi industriali e nel fatto che quelli per bambini abbiano additivi per generare dipendenza, come se stessimo parlando, lo sapete, storicamente questa è una delle accuse che poi è elevata in processi che hanno fatto la storia della tutela della salute rispetto al fumo e alle grandi aziende multinazionali produttrici di fumo. Poi si provò in tribunale, ci fu il famoso caso, un grandissimo film che poi tutti hanno anche visto, ma era un caso storico, quel film si ispira a quello che, essendo ricercatore esattamente delle multinazionali, decise a un certo punto che non ne poteva più e vuotò il sacco, e di lì le grandissime class action che negli Stati Uniti hanno portato a una svolta, no? nella sincerità, nella dichiarazione di alcuni additivi che venivano elaborati nel fumo. Ma la domanda è, cari ascoltatori, non se mangiare troppo zucchero fa male o meno. Ovvio che sì, la risposta è: siamo in presenza di un enorme complotto fatto per avvelenare i nostri figli? Questa è la domanda. E quindi la domanda è: perché ha chiamato le imprese, perché ha chiamato i consumatori? Perché capite che è un'altra questione questa, perché il medico, io gli riconosco tutti i titoli per parlare su ciò che dal punto di vista del nostro metabolismo e dell'equilibrio della nostra nutrizione può in generale questo, quella patologia. Altra cosa è se ha un'opinione organizzata sul fatto che vi sia una enorme cupola in Italia, nel nostro paese, con le autorità che svolgono i controlli, che praticamente sono comprate al servizio di questi interessi. Ecco, questo giusto per definire, perché è una trasmissione, è come se ci stiamo occupando di economia, ci stiamo occupando dell'intera filiera agroalimentare, oltre che, perdonate, del fatto che io vorrei sapere cosa diavolo do ai miei figli. Io è ovvio che mica gli do 5 litri di succo di frutta e chili di merendine, ma altro conto è se devo sapere che non gliene devo dare in nessun modo, perché altrimenti diventa dipendente. Non so se è chiaro quello che ho detto. Ci sentiamo tra un minuto dopo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta la versione di Oscar. Eccolo qua, io lo sapevo che sollevavamo un vespaio, perché raffica di sms di tutti i tipi. C'è chi dice che mi sto dando da fare per colmare i buchi del sole con i contributi delle aziende alimentari, ma cosa dite, per favore. C'è chi dice che anche quando abbiamo fatto la trasmissione sui vaccini non c'era il contraddittorio. Sì, anche in quel caso io sostengo che forse la sanità pubblica ci deve invitare, mica ci espone a morti se ci invita a vaccinare i nostri figli. Dove non lo fa più, si scende sotto 85% di tutela e ricompaiono in alcune regioni italiane, non quelle con la sanità più arretrata, per esempio la Toscana, dove è più forte l'ideologia, patologie che prima erano scomparse. E questo, io penso che sia il mio mestiere invitare gente che mi invita a riflettere su cosa vuol dire non vaccinare per certe patologie i figli. Altri che dicono che in realtà lo sappiamo tutti che i controlli sono al servizio di interessi più forti. Pensate di vivere in un mondo dove si avvelena la gente? Io non lo so, questo forse molti di voi sì, io spero proprio di no, ecco. E penso di no, perché non credo che, capite, dai NAS, l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, eccetera, siano lì a far passare la marijuana e la cocaina per i nostri figli. Non lo so, se voi pensate di sì, allora bisogna che ci organizziamo. Sentiamo qualche telefonata anche. Andrea da Padova. Oscar, buonasera. Sì. Volevo dare il mio contributo perché ho appena finito di leggere un saggio che si chiama Grassi, dolci e salati, che parla proprio dell'industria alimentare americana dagli anni 60 in poi e correlava sostanzialmente il consumo dello zucchero proprio con la dipendenza dei consumatori dallo zucchero. Quindi la cosa chiaramente è già stata considerata tempo fa e la cosa non è da, diciamo, e si è vista proprio questa correlazione diretta, questo bliss point, che è questo punto di appagamento, che è legato sempre fino a un incremento di zucchero, diciamo, tendenziale. Praticamente il consumatore continua a consumare perché ha questo appagamento che va chiaramente a stimolare lo zucchero, i neurotrasmettitori, la dopamina e comunque tutte quelle sostanze, quei neurotrasmettitori che sono alla base del piacere. L'appagamento e il piacere è un conto, perdoni, perché questo è alla base di qualunque esperienza di consumo, anche alimentare, maggior ragione. Altro conto è la dipendenza. La dipendenza è un altro fenomeno dal punto di vista neurochimico, cioè è la necessità di assorbimento di dosi crescenti, perché altrimenti nel metabolismo si ingenerano funzioni secondarie ostative all'efficienza minima, cioè è un'altra cosa. Però che la questione dello zucchero ci sia nell'alimentazione è ovvio, perché questa è stata la grande polemica per cui sono nate le bibite gassate con meno cose di zucchero e così via, ci mancherebbe. L'obesità è un enorme problema, ripeto, noi stiamo parlando di un'altra questione oggi. Sentiamo come la pensa Marco da Milano. Marco. Sì, buongiorno dottor Giannino. Prego, non dottore, ma sì, dica. Sono un medico e lavoro a Milano. Sì. Io credo che il contraddittorio sia mancato nella trasmissione, perché non si è fatto parlare un medico che la pensasse in modo diverso. Evidentemente la dottoressa era schierata apertamente contro una certa tipo di alimentazione, ma per partito preso e non certo per scienza, perché che il fruttosio sia più dannoso dello zucchero o del glucosio è una falsità, che il fruttosio, perché altrimenti noi non avremmo mai potuto mangiare la frutta contiene fruttosio. No, ma lei questo la traduzione lo spiegava, dice che però il fruttosio inibisce proteine ed enzimi più del glucosio e quindi l'effetto dell'insulina che serve a immunizzare col fruttosio funziona meno. Naturalmente diceva si può mangiare la frutta, però sappiate che il fruttosio è quello più responsabile del grasso viscerale. Ma in realtà poi non è proprio così. Il meccanismo della dipendenza è legato al fatto che lo zucchero, a parte la sensazione di piacere, eccetera, e l'appagamento di cui si parlava anche prima, è legato al fatto che viene stimolata proprio l'insulina, e l'insulina è un ormone che richiede. Noi sentiamo la fame perché la glicemia scende e l'insulina sale, e noi abbiamo bisogno di zucchero per questa ragione. Quindi non c'è nulla di arcano, di nascosto, di negativo nel fatto che lo zucchero richieda zucchero. Ovviamente poi tutta la questione dell'obesità, le quantità, certo. Questo ovviamente è un meccanismo, però non si può, nel contraddittorio non solo mancava un aspetto di scienza fine a se stessa, mentre questa è una, sono notizie scientifiche messe a disposizione di una sfonda che lavora contro le aziende o contro. Allora, io non mi piglio la responsabilità di dire né di dare giudizio su quella trasmissione. Non ho i titoli per giudicare la dottoressa Deborah Rasi, e ci mancherebbe. Però vi abbiamo dato semplicemente un piccolo esempio di come quando si ascoltano cose così eccetera bisogna sempre farsi delle domande. Poi io rispetto più di tutti, io però voglio avere la certezza del fatto di non vivere in un paese in cui sto dando la cocaina ai miei figli, e sono convinto di non vivere in un paese in cui diamo la cocaina ai figli. Vedo che molti di voi invece sono convinti di sì. La mia domanda è: cosa gli fate mangiare allora? Perché non so cosa dirvi, ecco, questo è. Però ne riparleremo grazie ai nostri ospiti Ovidio Marzaioli e Ivo Ferrari. E continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Milano. Attenti noi due.